Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto 89 oggetti, ho tirato su più di 4.000 euro e ho realizzato un desiderio. Manca un mese e mezzo alla fine e ho ancora un sacco di roba da vendere. Quindi, Ale, vendo tutto. È che la mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so che capita, succede a tutti, era toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una bussola. Mare, 5. Mar, Ligure. Ovest, 4. Mare, 5. Perché capita a tutti più o meno, no? Almeno una volta nella vita capita di trovarsi in una tempesta, no? Un roba forte. Mare, 4. Ovest, 5. A me è capitato proprio quando quando ho preso questa bussola, quando questa bussola me l'hanno regalata in realtà. È successo in mare aperto. Quando arrivano le tempeste hai sempre la sensazione di non essere pronto, nel senso che magari lo sai perché ci sono i bollettini che te lo dicono, che stanno per arrivare. Tu ti prepari, sistemi tutto, però c'è niente da fare. Quando arrivano le tempeste sono sempre più spaventose di come te l'aspettavi. Mare, 4. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, sono le 16:08 e oggi si parla di tempeste, ma non di tempeste ormonali o di tempeste interiori, tipo Sturm und Drang o quelle robe lì. Oggi si parla di tempeste reali. 800240024 349-238-6666. Perché non dovete essere per forza dei marinai, non dovete essere per forza degli arrampicatori solitari o non dovete essere per forza dei camminatori o dei maratoneti. Capita ogni tanto che il tempo cambi e uno si trovi mentre fa una passeggiata in montagna, mentre ha affittato una canoa o un pedalò o una barcavela in mezzo al mare, o mentre sta passeggiando, mentre è in moto anche, vale anche mentre è in moto, mentre è in bicicletta, insomma, semplicemente mentre è esposto alle intemperie, capiti che arrivi una tempesta. Come tutte le tempeste sono più forti di quanto ce le si aspetti, però basta star lì e di solito passano. 800240024 349-238-6666. È un po' come la storia del vulcano. Come si chiama? Ayyallah Rahmaniski. Più o meno così. Succede che a volte arriva un vulcano a dirti che sei piccolo così, no? Non ci vuole tanto. Un po' di cenere nel cielo e rimangono tutti bloccati. Invece delle volte, di solito d'estate, ma anche d'inverno, mentre si scia succede che semplicemente calino un po' di nubi e uno si rende conto che il filo è proprio sottilissimo tra sono un gran figo e sono un cretino. 800240024, si parla di condizioni meteo avverse che vi hanno sorpresi e magari per un attimo avete anche avuto paura di non farcela. Proprio per un attimo, eh? È però quella roba che ti fa stringere un pochettino la bocca e ti fa pensare che non me l'aspettavo che era così. E poi però, di solito, se sta buoni, tranquilli e sereni, quella roba li passa. 800240024 349-238-6666, perché la mia tempesta io sto per raccontarvela. È successa qualche anno fa. Ero in mare con un amico ed è arrivata. E quando è passata, improvvisamente la vita sembra sorridervi. Ma non serve essere per forza in mare, dicevamo, serve essere anche semplicemente in moto. E allora di solito si aspetta sotto un ponte se si è in moto, no? Poi molti ciclisti più esperti c'hanno la pettorina, c'hanno tutto il necessario. Però ci sono anche quegli esempi che vanno a camminare in montagna. Sì, facciamo tre passi sull'alpeggio, ma roba da niente, andiamo su, prendiamo la toma e torniamo giù. E poi arriva giù l'ira di Dio e allora lì uno deve semplicemente aspettare che passi. I racconti delle vostre tempeste che avete vissuto, ci siete passati attraverso e avete superato. 800240024 349-238-6666. La bussola è sul sito radio24.it per vederla, è lì per sentire la sua storia e la tempesta attraverso cui sono passato e da cui sono uscito. State qui. La bussola. Bussola a compasso Silva, modello 103, colore nero, fabbricata in Svezia. Ottima da deriva, ma utile anche su cabinato. Perfetta per la navigazione, ma anche se si perde spesso il senso dell'orientamento. Valore commerciale 135 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Certe volte è un po' come se la vita ti presentasse il conto di un pranzo che non hai mai consumato. Allora ti chiedi se hai fatto qualcosa di male per meritarti tutto questo. E alcune volte la risposta è sì. Effettivamente avevi fatto quello che non si doveva. E quindi era giusto che tu pagassi. Altre volte no. È proprio il caso che determina tutto. Ecco, questi sono stati i pensieri che mi sono venuti in testa la prima volta che ho davvero avuto paura di non farcela. Avevo da poco compiuto 30 anni ed ero su una barca in mezzo al mare. La barca non era mia, era del mio amico Luca, e lui era con me su quella barca, ma tutto intorno a noi c'era solo vento forte e mare grosso. Allora, quando metti i piedi su una barca, la prima cosa che devi fare è sapere che tempo farà, o almeno cercare di interpretarlo, e poi prendere decisioni di conseguenza. Il problema è che quella volta lì eravamo di fretta, perché la sua barca era in Sardegna e andava portata a Genova perché l'aveva appena venduta. Non era una barca grande, ma in due si stava molto comodi. Siamo partiti nel tardo pomeriggio di un giorno di febbraio, prevedendo di arrivare la mattina dopo. Il vento cominciò a montare verso mezzanotte, mentre Luca faceva il suo turno al timone. Quando dopo un paio d'ore venne il mio di turno e lui scese sotto coperta per asciugarsi, io rimasi fuori da solo. La tempesta era arrivata, il bollettino l'aveva prevista, ma non è mai come te l'aspetti. Non so bene quanto durò, però per un minuto, per 10 minuti, forse un'ora, insomma per quel lasso di tempo, in quel buio pieno d'acqua e di vento, io ho avuto paura. Non è facile ammettere di avere paura, anche perché la paura non arriva di botto, è lenta. Senti che sale, non puoi bloccarla, è come il latte che si scalda nel pentolino. Quando comincia a montare non lo puoi già più fermare, anche se spegni il fuoco sai che tracimerà e finirà sul fornello. Quella fu la prima volta che provai davvero paura. Paura di non farcela, intendo. Il vento soffiava così forte che la barca era tutta sbandata da un lato. Il mare continuava a salire in coperta e spazzava via tutto quello che trovava. Io ero legato al timone con la cintura di sicurezza. Seguivo la bussola perché il buio mi impediva di vedere oltre la prua della barca. L'unica cosa che potevo fare era concentrarmi sulla rotta. Ma la paura era lì, in attesa, e non appena mi distraevo, tornava a farsi sentire. La paura lavora per sottrazione. È come se ti facesse una lista, un elenco di cose. Tutte le cose che non potrai più fare, o le persone che non potrai più incontrare. Ecco, la paura è l'elenco di cose che ti mancheranno, e che ti piacevano molto di più di quanto immaginassi. Io, nel frattempo, per non sentirla, tenevo le mani strette sul timone e gli occhi fissi ai gradi bussola. C'era talmente tanta acqua che non capivo nemmeno se stesse piovendo oppure no. Il vento nebulizzava la cresta delle onde e me le sparava negli occhi, e quindi non mi accorsi nemmeno che Luca era uscito. Sentii la sua mano che afferrava la mia. Alzai gli occhi e lui, sorridendo, mi guardò e mi disse: "Tranquillo, stiamo per uscirne." Then I'm radio on, then I'm television, I'm afraid of everyone. I'm afraid of everyone. Lay the young blue bodies with the old red bodies. I'm afraid of everyone. I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders, I try not to hurt anyone. Body I like, but I don't have the drugs to sort. I don't have the drugs to sort it out. Sort it out. I defend my family with my own umbrella. Non è stato così vero. La tempesta è durata almeno per altre 5 ore. Poi, come sempre, si è calmato prima il vento e poi il mare. Il cielo è diventato grigio e piatto, come l'acqua. Quasi si faceva fatica a distinguere dove iniziava uno e dove finiva l'altro. Non c'era una bava di vento, quindi accendemmo il motore e continuiamo verso Genova. Ancora la costa non si vedeva, però sapevamo che il peggio era passato. E io mi sentivo molto rilassato. È bello pensare di essere uscito da un pericolo. Pensare che le cose brutte non sono senza una fine. Luca tirò fuori una cassetta degli attrezzi e si mise a lavorare alle due bussole. E lentamente svitò prima una e poi l'altra. Gli chiesi cosa stessi facendo, lui mi disse che l'acquirente se ne sarebbe comprate due nuove e che quelle ce le portavamo a casa noi, come ricordo, una io e una lui. Io pensai che era una buona idea, che mi piaceva il fatto di portarmi a casa qualcosa di quella tempesta, di quella navigazione, e che le bussole mi piacciono. Mi piacciono perché non ti indicano la destinazione, ti indicano solo la strada. E poi mi piacciono perché ti ci devi fidare. Ti devi fidare del fatto che qualcuno ha costruito quell'aggeggio infilandoci un ago calamitato che si allinea verso nord. Vabbè, non solo, ti devi anche fidare che i due poli della Terra creano un campo magnetico che permette a quel lago di allinearsi correttamente. Insomma, questa cosa della bussola mi piace. Mi piace il fatto che devi avere fiducia. Ecco, è un po' come un dogma. No, che poi non è proprio vero, perché i dogmi non si spiegano mentre la bussola sì. Però ti assicuro che quando sei in mezzo al mare e non hai nessun riferimento, l'unica cosa che puoi fare è guardare dov'è il nord e agire di conseguenza. Quel giorno mangiamo qualcosa mentre ci stavamo avvicinando alla costa e lui salutò quella barca, che a breve non sarebbe più stata sua. In vista di Genova spuntò anche il sole e a me venne in mente che Genova per noi piemontesi è sempre stata la città del sole. Anche se vista dal mare, adesso faceva un altro effetto di quando da piccolo ci arrivavo in auto con i miei genitori e sembrava un cumulo di palazzi aggrappati alla montagna per non scivolare in mare. Vista dal mare invece Genova sembra ordinata. Tutta la costa, tutta la terra sembra ordinata. Vista da lontano sembra che si possa misurare. Sembra che sia più comprensibile la terra vista dal mare. Le case, le strade, perfino le auto sono tutte al loro posto, quello giusto, l'unico in cui potrebbero stare. La terra quella mattina di febbraio vista dalla barca sembrava così bella che quasi ti veniva voglia di mantenere la distanza. E poi niente, guardai Luca. Lui stava sistemando le cime per l'arrivo in porto e allora lì pensai che alla fine conveniva non farsi prendere troppo la mano, no? E dopo un giorno e una notte in mare con una tempesta, magari una volta arrivati, la terra sarebbe stata bella anche vista da vicino. Quindi, nonostante la tempesta, il campo magnetico e Genova, questa bussola è in vendita. Il suo valore è di 135 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se siete passati attraverso una tempesta e ne siete usciti, 800 24 0024. Questo pezzo si chiama Mondo Tempesta, giusto per stare in tema, ed è un pezzo dei Perturbazione. Giusto oggi esce il loro ultimo album, non lo facciamo mai, però un po' sono amici e un po' ci piacciono. L'album si chiama Del Nostro Tempo Rubato, loro sono i Perturbazione e questo pezzo invece si chiama Mondo Tempesta. 800240024 3492386666. Di ritorno da un corso su i rischi della vita per consulenti in macchina tempesta di grandine. Questa è una presa per il culo, ovviamente, però adoro i consulenti. Io ho vissuto la peggior tempesta del secolo nel Mediterraneo, venti a 163 nodi, certificata da strumenti, perché qui ragazzi vogliamo la certificazione, non è che mi dici 163 nodi che sono qualcosa tipo 300 km all'ora di vento, vabbè. Ciao, sono Chiara da Milano. 5 anni fa ero in vacanza con i miei in Olanda, parco naturale, noi in bicicletta, tutto intorno a noi il deserto, solo piante e animali. Ad un certo punto un nuvolone improvviso nero, così nero da non avere mai visto uno così. Lampi e tuoni accompagnati da una pioggia battente. Abbiamo fatto una corsa pazzesca per raggiungere il punto di ritrovo. Una paura assurda. Ora ci ridiamo su. Complimenti, complimenti a te. 80024 0024, si parla di grandi tempeste. Andiamo a Torino da Carlo. Pronto Carlo? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao. Come stai? Volevo raccontarti la mia esperienza. 10 anni fa sì? Abbiamo partecipato alla maratona del deserto. Ma ci sono un sacco di maratoneti che ascoltano Radio 24. Pronto? Ci sei? Sì. Scusami, la maratona del deserto sono i soliti 42 km e passa? No, sono 230 in 6 giorni, quindi vuol dire portarsi dietro indumenti, tutto, in autosufficienza. Ma tu non lo fai di mestiere, Carlo? No, io faccio un'altra cosa. Cosa fai? Puro divertimento, no? Che lavoro fai, Carlo, scusami? Commerciante. Ok, perfetto. Vendo mobili. Insomma, eri nel deserto? Sì, eravamo nel deserto e logicamente ci si aspetta tutto tranne che la pioggia. Ah beh, cioè diciamo di norma. Eravamo preparati a tutto, al caldo infernale, alla fatica, a tutto. A un certo punto, la prima notte, diluvio universale. Una cosa pazzesca, una pioggia incredibile. Ma voi stavate correndo o eravate fermi accampati? Noi stavamo dormendo sotto le tende berbere, praticamente sotto a delle tele sacco nere, in cui l'impermeabilità logicamente non è. Ovvio. E cosa avete fatto? Ci siamo beccati una lavata di quelle indimenticabili. La mattina eravamo tutti neri perché questi sacchi erano facevano passare l'acqua anche colorata. Okay. Eravamo tutti con tutte le scarpe tutte bagnate, quindi una cosa. Ma senti, siete riusciti a finirla sta gara oppure no? Sì. Ah. No, l'abbiamo finita benissimo. Il drammatico è stato solo che il primo giorno, quando siamo partiti, il deserto sembrava la verde Irlanda, no? Cioè che c'era erba? Era fiorito, era tutto verde. Vabbè, insomma, però mi è piaciuto perché io mi aspettavo chissà cosa, una lavata pazzesca. Grazie, Carlo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Catania da Enzo. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Enzo. Tu cosa stavi facendo quando è arrivata la tempesta? Quando è arrivata la tempesta, in questo momento lavoro. Allora, quando è arrivata la tempesta io stavo dentro una tenda, come il precedente ascoltatore, però al centro della Sicilia, in provincia di Agrigento, a pescare in un lago. Scusami, tu sei di Catania, mettiamo un attimo in ordine le cose, tu sei di Catania, allora, okay. Stai sul mare e vai in provincia di Agrigento a pescare in un lago? Sì, certo, okay. In una diga. Ok, perfetto. Okay. Ed è arrivato una tempesta. Effettivamente mi sembra anche giusto a questo punto. Penso che te lo meriti, Enzo. Puoi startene al mare a pescare sul molo, invece vai su una diga. 300 km per andare a pescare, giusto che mi becchi. Però tu eri sulla terraferma, non eri al centro della diga. Sì, no, io ero dentro una tenda, sulla terraferma. Ok, quindi insomma, che cosa è successo? Lavata pazzesca. Oltre anche a quella, il pericolo dei fulmini. I fulmini che cadevano a destra e a sinistra, infatti noi siamo riusciti appena a scappare dalla tenda e infilarci in macchina. Enzo, quanti fulmini saranno caduti? Dimmene 50, alza. No, saranno stati 4-5, uno addirittura è caduto sul muraglione della diga facendo spegnere tutta la diga. Ah, ok. Senti, non c'hai un video purtroppo per documentarlo, ma noi ti crediamo sulla parola. Grazie Enzo. Okay, ciao, alla prossima, ciao grazie. Vorrei qualcosa di più però, capito? Non una lavata pazzesca. Giordano da Pistoia, pronto? Pronto Matteo, ciao. Ciao Giordano, dai, dammi qualcosa di succulento, che so io, persone ferite, robe, niente. No, senti, io ho portato mia moglie su al Plateau Rosà perché le volevo fare vedere il panorama che c'è, bellissimo. Plateau Rosà, diamo un po' di dati per chi non la conosce. È una stazione sciistica che è praticamente da lassù, puoi scendere anche giù in Svizzera, infatti c'è il confine. Ok. È bellissimo sopra Cervinia. Però il fatto è che quel giorno c'era una tempesta di neve e ce ne siamo resi conto solo quando con la funivia siamo scesi lassù. E quindi? La cosa che brutta che ci ha sfiorato, almeno a me, facevo finta di nulla. No dai, non ti preoccupare, vedrai che ce la facciamo, abbiamo infilato un sentiero. Il vento era talmente forte che non riuscivamo nemmeno a scendere, ci siamo dovuti levare gli sci e tornare a piedi al rifugio. La cosa, io non so a quanto tirava il vento, ma era una cosa spaventosa. Spara un dato, chi se ne frega, 120 nodi. ma 120 no, ma dai 90 ai 110, insomma, diciamo, era forte, forte, forte. Ma quello che mi ha ulteriormente un pochino spaventato è che tua moglie... ho visto il termometro, mia moglie è scoppiata in lacrime appena siamo entrati a... Il termometro era? Era meno 17. Voilà, grazie Giordano, dei dati, quello volevo, non una lavata pazzesca me la piglio anch'io fuori dalla radio. 16:27 minuti, io vi ringrazio quelli che hanno scritto. Pale di San Martino, io e la mia ragazza, nebbia, panico totale, paura, Remo. Detto così, Remo spero che sia il nome e non un verbo. Grazie a Paolino Corleoni, Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi. La bussola è sul sito come al solito. Lunedì invece vendo un tavolinetto, pronti perché il pezzo di lunedì è roba grossa, eh. Godetevi questo fine settimana e se non sapete dove state andando, non vi fate problemi, che alla fine trovare l'orientamento c'è sempre tempo. Love, love, love,